vada via. Il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003. Mille tre. Quan fra questi contadine, famigliere cittadine, quan condesse baronesse, marchesane principesse, quan donne ogni qua, ogni forma d'ogni età, ogni forma d'ogni età. In Italia, 640. In Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003. Van fra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesine, principesse, viva donne, donne, bravo, donne, forma, donne, età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Quel che fa voi

questa tavola, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Che spetta ai danari, voglio divertir, voi farate amici cari, con ciò che spetta ai danari. Thank you. Thank you. più non so. Mario, ascolta, più tempo non ho. Parla, parla, sei carne di ahimè, cos'hai? Che c'era in questo mare?